Saluto a tutti, io sono Sara e vi parlo da Radio Wombat. È la prima volta che appunto parlo direttamente in radio e ringrazio la radio per avermi lasciato questo spazio questa sera. Saremo un'ora insieme per parlare delle lotte dei lavoratori di Prato, del distretto, della logistica, della provincia di Prato e di Firenze. E, in passato ho provato, diciamo, a dare dei contributi più ristretti dentro delle altre trasmissioni, ma abbiamo pensato, diciamo, durante questo periodo della quarantena in cui, come abbiamo visto, il tempo, diciamo, in brevi periodi di tempo accadono tantissime cose, per cui c'erano tanti aggiornamenti da fare, abbiamo pensato di prendere uno spazio più, più lungo. Quindi vi parlerò dei, a partire dai buoni spesa che hanno iniziato a essere distribuiti dai comuni dopo che c'è stato il decreto di Conte e sia a Firenze che a Prato, a partire, diciamo, da delle proteste che ci sono state sulla difficoltà da parte di moltissimi in questa situazione a poter anche solo fare la spesa, e quindi un aggiornamento un po' su come sta andando e come e cosa si sta mettendo in campo su Prato, in particolare nel quartiere del Soccorso, per poter dare anche un aiuto solidale tra gli abitanti del quartiere, quindi non solo attraverso i buoni spesa. E poi, diciamo, volevo affrontare un po' la questione di Confindustria, il ruolo ovviamente in modo un po' ristretto, perché se dovessimo parlare veramente del ruolo che ha avuto Confindustria in questa quarantena avremmo bisogno probabilmente di tutta la giornata, però appunto, diciamo, un po' quello che sta succedendo a Prato e l'incontro, in particolare sull'incontro che c'è stato ieri a Prato per parlare della riapertura del distretto produttivo. E, e poi ancora, diciamo, un aggiornamento su quello che è stato invece nel mondo della logistica, che conseguenze ci sono state nel mondo della logistica a partire da inizio marzo, le lotte che si sono messe in campo per il diritto alla salute e quindi le astensioni che ci sono state per pretendere delle misure di sicurezza anche nei magazzini della logistica, che sono comunque sono tanti, e in particolare tra le zone di Campi Bisenzio, Calenzano e il comune di Prato. Sono tanti i magazzini dei grandi, delle grandi aziende della logistica come TNT, GLS, e quindi come, cosa è successo dentro questi magazzini, come, in quali forme si è potuto lottare anche in questa situazione, appunto, in cui non si possono, non si possono fare assembramenti, non si possono fare picchetti, e quindi si è dovuto trovare delle forme, diciamo, diverse per poter pretendere il proprio diritto alla salute e quindi di non essere contagiati e di rimanere a casa come, come stavano facendo tutti e come ci stanno ripetendo ormai quasi da due mesi. Quindi un po' un passaggio su quello che è stato la logistica, come anche il mondo dell'e-commerce abbia influito, diciamo, in questa situazione in cui i negozi sono stati chiusi, in tantissimi hanno cominciato a ordinare su internet quello che gli serviva, e quindi, diciamo, qual è stata anche la situazione di quei lavoratori che si sono visti appunto poi costretti a dover consegnare molto di più di quanto non facessero prima, in delle condizioni di altissimo rischio. Io vorrei ricordare, soprattutto nelle regioni del nord, sono tanti i corrieri che purtroppo hanno perso la vita a causa del coronavirus e perché sono stati costretti a continuare a lavorare, persone che sono molto esposte e che appunto poi hanno rischiato moltissimo fino alla morte. Cercherò appunto di aggiornarvi su questi punti. e darvi un quadro un po' più complessivo di quello che sta accadendo in particolare a Prato tra i lavoratori che in questi anni si sono messi in lotta e si sono organizzati. Adesso vi lascio una canzone di Margherita Vicario e spero vi piaccia. Volevo ringraziare chi mi ha aiutato in questa selezione musicale per questa prima trasmissione. E adesso vi lascio all'ascolto. Non la so scrivere una canzone, tanto che serve basta fare no no no no. Perdo punti sul tabellone, da sola riesco a dire solo no no. Margherita Vicario con Abaué. Vi invito a vedere anche il video che è molto molto bello secondo me. Allora parto da i buoni spesa. Questa mattina sono uscite le graduatorie a Prato e c'è una grande confusione sui buoni spesa perché ogni comune ha diciamo un sistema diverso. Per cui vi lascio immaginare, appunto, per esempio, anche solo su Prato, tante persone che magari lavorano a Prato hanno la residenza nei comuni vicini, per cui Vaiano, Carmignano, tutti questi piccoli comuni che a loro volta hanno dei sistemi differenti. Però ci concentriamo su Prato, dove a fare le domande sono stati veramente in migliaia. quasi 7.000 persone, penso, e questa mattina sono uscite le graduatorie che vanno in base ad un punteggio. Il risultato è che ad avere i buoni spesa sono 2.900 persone, quasi 3.000 persone, ma a rimanere esclusi sono quasi 2.000. E esclusi, cioè che gli è stata accettata la domanda, ma i fondi sono esauriti e quindi non avranno la possibilità di avere questo buono spesa. Ma faccio un passo indietro per spiegare un attimo come ha funzionato, diciamo, la richiesta dei buoni spesa. La settimana scorsa è uscito, diciamo, questa specie di bando e c'era la possibilità solamente per 4 giorni attraverso il sito internet di fare richiesta. Quindi volevo sottolineare come sono migliaia le domande che sono arrivate, anche se comunque c'erano già diciamo, dei problemi anche solo nella richiesta, a partire dal fatto che in primis, per esempio, diciamo, le domande sul sito del comune erano solamente in italiano, per cui in tantissimi che non sono non madrelingua italiani hanno avuto difficoltà, ma penso anche magari agli anziani che possono avere dei problemi su, diciamo, la possibilità di capire come compilare la domanda. In teoria c'era un servizio telefonico di supporto, ma ovviamente ci possiamo immaginare come fosse intasato e quindi occupato sistematicamente. Ma ancor più importante sui buoni spesa e nello specifico a Prato, perché in tanti altri comuni non è stato così, chi poteva fare la domanda per i buoni spesa erano solamente i residenti. Per cui tantissime persone che magari lavorano a Prato, vivono a Prato da tanti anni, ma non hanno la residenza, non hanno potuto averci accesso, ma anche ovviamente i tantissimi che una residenza non ce l'hanno, perché purtroppo ancora oggi nel nostro paese per tanti è possibile rimanere senza la residenza, in particolare le persone che diciamo, lavorano nel distretto sono in tanti richiedenti asilo che non hanno la residenza, pur lavorando anche da molto tempo nel distretto pratese, perché magari non possono avere un contratto regolare di affitto e quindi o semplicemente il loro padrone di casa non gli dà, diciamo, il documento per poter fare la residenza. E quindi queste persone sono rimaste escluse, come purtroppo rimangono escluse da tantissimi, cioè non hanno accesso sostanzialmente a tantissimi servizi che il comune eroga. E diventano sostanzialmente dei cittadini di serie B anche per il buono spesa, appunto, si è creato questo discrimine sulla residenza. Io volevo fare solo un appunto, cioè nel senso per spiegare un po', dare un quadro. Noi siamo stati 3 giorni nel nostro ufficio in via Ferrara del Sicobas per, diciamo, aiutare a compilare queste domande e sostanzialmente quasi la metà delle persone non avevano la residenza. Per queste persone il comune di Prato, dopo quasi 5 giorni, ha comunicato quali erano le possibilità e queste sostanzialmente sarebbero a ricevere dei pacchi alimentari. Non è chiaro, inizialmente non era chiaro nemmeno in che modo, poi dopo è stato comunicato sostanzialmente che bisogna sostanzialmente fare richiesta ai servizi sociali e la Caritas dovrebbe portare un pacco alimentare. Non è chiaro perché si sia fatta questa distinzione, visto che una cosa ovviamente è ricevere dai 100 ai 400 euro di buono spesa e un'altra cosa è avere un pacco alimentare, come possiamo immaginarci dalla Caritas. Per cui già c'è stato questo primo discrimine, ma come vediamo appunto dalla graduatoria che è uscita questa mattina, in tantissimi diciamo un terzo delle persone, delle famiglie, perché poi ogni domanda può essere da una a quattro persone che hanno fatto la richiesta, sostanzialmente non hanno potuto avere accesso, per cui rimangono a Prato solo tra i residenti oggi migliaia di persone che si trovano in una situazione di indigenza, che hanno perso lavoro, che sono in cassa integrazione e ancora questa cassa integrazione non l'hanno vista neanche col binocolo, ma di questo ne parliamo anche più avanti. E non hanno potuto avere accesso al buono spesa. Noi sicuramente cercheremo di organizzarci per pretendere che appunto ci sia una soluzione anche per queste persone. Le dichiarazioni del Comune di Prato sono state che, diciamo, se e quando forse arriveranno altri fondi, si daranno anche a queste altre famiglie. Ma noi sappiamo che questa situazione è insostenibile, ormai siamo quasi 2 mesi che siamo chiusi in casa, la gente non sta lavorando da molto tempo e di certo non può aspettare che vengano elargiti altri fondi. Anche sarà così, bisognerà comunque poter dare un nuovo buono spesa a tutte le famiglie anche che hanno già ricevuto il primo. Per cui, ovviamente, come ci aspettavamo, sono tanti i problemi che stanno emergendo a proposito di questi buoni spesa che sono nati a partire da delle proteste che si stavano diffondendo, in particolare nel Sud Italia, ma non solo, di tantissimi che non potevano, che ancora oggi non possono addirittura fare la spesa. Pensiamo ai tantissimi lavoratori in nero o anche solo con contratti a chiamata, comunque forme di contratto spurie che sono diffusissime nel nostro territorio e che appunto non hanno accesso alla cassa integrazione, non hanno accesso ad altre forme di sussidio. E quindi a partire da queste proteste, penso che abbiamo visto tutti di gruppi WhatsApp in cui giravano audio ma anche video su Facebook in cui la gente andava al supermercato e comprava dei generi alimentari di prima necessità, pretendendo giustamente di non pagarli. E, a partire da questo malcontento che stava nascendo, il presidente Conte ha annunciato questa forma dei buoni spesa. Noi abbiamo visto oggi a Prato già quali sono le conseguenze, ma anche a Firenze hanno usato un sistema diverso che comunque è ad esaurimento, per cui era più un chi prima arriva meglio alloggia, chi prima riesce a fare la domanda forse avrà il buono spesa, ma poi una volta finiti i soldi non ce ne sarà più per nessuno. Quindi sicuramente noi, come anche in altre città sta già succedendo, pretenderemo delle risposte da parte del comune, ma non solo, per le tantissime famiglie che oggi non hanno ricevuto questo buono spesa e che si trovano in delle situazioni veramente di grande difficoltà. Noi, in questo senso stiamo provando a mettere in piedi, come in tantissimi altri stanno già facendo, in particolare conosco tante realtà di Firenze che si sono già attivate già da molto tempo per non solo portare la spesa a casa, ma anche per fare forme di mutuo soccorso, di raccolta alimentare per chi in questo momento non può appunto nemmeno fare la spesa. Noi i lavoratori di Prato stanno mettendo in piedi una raccolta alimentare nel quartiere del soccorso di Prato, un quartiere dove diciamo c'è la sede, ma è anche un quartiere generalmente definito diciamo più degradato, più periferico, e abbiamo scelto di chiamare questo progetto soccorso attivo nell'ottica in cui in questa situazione particolare gli abitanti del quartiere e i lavoratori si possono aiutare l'un l'altro per sostenere chi in questo momento è veramente in una situazione di grandi difficoltà. Adesso vi parlerò un po' meglio di questo progetto, ma dopo una canzone di Ugo Borghetti, Campare di Campari. Vorrei fa come il vichingo e campare di Campari e contare sui passanti e campa come i cristiani e voglio più di 100.000 persone al mio funerale. ma per prima fa finta che se non ci sta ne è uguale, resto qua. Senza soldi, senza fan, fanno così le superstar. Pure se non lo sappiamo, passa un pezzo in radio, sopra ci canto una canzone mia che fa dari dari di di di di dari dara. Sveglia la mattina, colazione schedina, Campari, birra e di corsa alla partita. A 18 anni con le braccia bucate alla mina. Quei giorni d'agonia si possono chiamare vita. Vorrei cancellare l'ultimo messaggio inviato. In passato ho sbagliato, ho truffato e ho rubato. Ma con le guardie non ci ho mai parlato. Mica come il tuo amico che è un infame dichiarato. Carta parla e villa dorme, chi sbaglia paga. Queste sono le norme. Amo Roma, la strada in tutte le sue forme. Non mi fido di chi dorme, mi fido solo dei fratelli con cui bevo e mangio. E da morto non dite che era un santo, ma un bastardo che stava sempre imbriaco. Bevo birra in un angolo da solo come un appestato. Bevo e fumo tanto per reprimere tutta st'angoscia che non mi fa dormire. Sogno il giorno che ti rivedrò aspettarmi su una panchina in piazza. E forse stasera è meglio che scalle il piatto e ne do un'altra. Almeno do un motivo a stanzia, almeno per un po' st' enorme vuoto che ho dentro. Accendo il cicchetto e fuori fa freddo. Vorrei fa come il vichingo e campare di Campari. E contare sui passanti e campa come i cristiani. E voglio più di 100.000 persone al mio funerale. Ma per prima fa finta che se non ci sta ne è uguale, resto qua. Senza soldi, senza fan, fanno così le superstar. Pure se non lo sappiamo, passa un pezzo in radio, sopra ci canto una canzone mia che fa dari dari di di di di dari dara. 126, CXXV, Love Gang, Soldi Music, UPC, Roma, Trastevere, il Sacro Studio, fanculo le guardie. Torno a parlarvi di quello che si sta facendo a Prato in questo periodo di quarantena. Per chi si fosse collegato adesso all'ascolto, stiamo provando a descrivere un po' la situazione di Prato, ma non solo, della provincia di Prato e del comune di Firenze in questa situazione di emergenza sanitaria. E in particolare volevo parlarvi del progetto soccorso attivo, così è stato deciso di chiamare un progetto per il quartiere del soccorso, un quartiere di Prato in cui molti lavoratori abitano e in cui hanno deciso di iniziare una raccolta alimentare. In tanti hanno deciso anche di, per esempio, donare una parte di quello che sarà il loro buono spesa per contribuire a condividere con tutti i soggetti del quartiere, ma non solo, che oggi purtroppo sono in difficoltà. Tra questi purtroppo ci sono anche i lavoratori di Superlativa, che spero molti di voi conoscano, che hanno una storia molto lunga e anche difficile, che ancora oggi, appunto, come in tanti, non hanno non stanno lavorando in questo periodo. La Superlativa ha chiuso e i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, ma come sappiamo negli ultimi mesi hanno ricevuto solamente pochissime mensilità. Mi sembra l'oggi le ultime mensilità che sono state ricevute fossero quelle di ottobre, e quindi ovviamente prima dell'arrivo della cassa integrazione in tanti non sanno nemmeno come poter mettere insieme il pranzo con la cena, in tanti hanno problemi a pagare l'affitto, per cui in primis i lavoratori hanno deciso di organizzare questa colletta anche per i lavoratori del Sicobas e quindi fare una ridistribuzione, ma non solo per loro, e poi cominciare con la distribuzione sul quartiere, che avverrà a partire da questa settimana, non solo diciamo attraverso la sede in via Ferrara, ma anche distribuendo porta a porta. Speriamo che sia un progetto che riesca andare in fondo a coinvolgere più persone possibili del quartiere del soccorso per appunto, come dicevo, dare un sostegno dal basso a chi è in difficoltà in questo momento, ma anche per poterci organizzare nell'ottica appunto di pretendere comunque che siano elargiti non solo questi buoni spesa, ma che ci sia il sostegno da parte del comune, ma non solo per chi in questo momento, in questi mesi, non ha potuto lavorare, chi ha perso il lavoro, in tantissimi che magari normalmente lavorano nella stagione del tessile che di solito inizia a marzo, appunto, e che quest'anno ovviamente non è partita, non penso nemmeno partirà, sicuramente se lo farà in grande difficoltà, ma ci sono migliaia di lavoratori che quest'anno non potranno lavorare, per cui abbiamo visto come per esempio per il turismo si è provato diciamo con questa cosa dei 600 euro, questi 600 euro che sono stati pensati per le partite IVA, ma non solo, anche per i lavoratori del turismo che sono appunto stagionali, ma sappiamo come nel nostro paese ci sono tantissimi lavori che sono stagionali, non sono solo il turismo, non sono solo l'agricoltura, ma per esempio anche il settore tessile che nel periodo, diciamo, poco prima della primavera vede un boom della produzione, in particolare a Prato, che si occupa ovviamente più di produzione di capi di cotone, quindi più estivi, e quindi vede raddoppiare praticamente la sua forza lavoro. Ci sono tante persone a Prato che vivono sostanzialmente solo di quello, fanno la stagione molto spesso lavorando 12 ore al giorno, mettendo da parte i soldi per poi il periodo invernale. Questa stagione, quest'anno non ci sarà, per quanto Confindustria stia continuando a insistere sulla riapertura immediata che probabilmente avranno fra 5 giorni, fra 5 giorni, il 20 aprile, però sappiamo bene che è già in atto una crisi economica gravissima e che quindi lo Stato e diciamo gli enti, anche la Regione, il Comune, devono riuscire a farsi carico dei tantissimi che in questo momento saranno esclusi dal lavoro e non percepiranno nessun salario e nessuno stipendio. Noi non possiamo pensare che non è accettabile pensare che queste persone debbano rimanere indietro, che non abbiano nessuna possibilità, ma è necessario, appunto, come nella crisi del 2008 si è pensato a salvare le banche e sappiamo anche quanto ci è costato, oggi pensiamo spetti a noi quel salvataggio e che quindi chi sta già oggi subendo questa gravissima crisi economica possa avere il sostegno di cui ha bisogno e che necessita. Quindi adesso vorrei parlarvi di Confindustria e dell'incontro che c'è stato nella giornata di ieri e dall'accordo che ne è uscito nella serata tra Confederali, Confindustria, CNA per la riapertura del distretto tessile e quindi subito dopo il prossimo brano vi parlerò di cosa è successo a Prato sul piano della riapertura. L'odore di un pacco di erba che si sente in tutta la scala. I fra che non fanno traslochi, ma se vuoi ti svuotano casa. Senza un lavoro normale se lo inventano. Quello che non hanno loro se lo prendono. Giovani rocce su giovani bocce. Busti nei reggiseni di giovani donne. Fuori quando il blocco dorme. I soldi non dormono manco di notte. Fumiamo 10 grammi, fanculo ai cowboy. THC sembra una fruit joy. Queste scale sono il nostro trono. Parlano la lingua che parliamo noi. Sono padre un po' prima del tempo i miei fra. Invecchiano dentro una cella ad un bar. Certi diventano star. Certi non si sono mai mossi di qua. E sognano vite diverse da queste. Mentre uno sbirro gli chiede dove sta la merce, tutti fanno finta di niente, come non fosse mai successo niente. Bravi ragazzi nei brutti quartieri, fumano e parlano lingue diverse, però non ci parlano i carabinieri. Fanno le cose che è meglio non dire. fanno le cose che è meglio non fare. Bravi ragazzi nei brutti quartieri. No, mamma, non preoccuparti, esco solo a farmi un giro con i bravi ragazzi. Sfrecciano alle tre di notte sull'Audi. Dio non li vede qua giù, dietro quei tendoni blu, quindi non pregano più. Palazzi alti come Vatussi, maglie di Armani, cinte di Gucci. Raga, si muovono svelti in questo fuggi-fuggi. Butterfly dentro gli astucci, vestiti bene in quartieri di merda. Agi nella felpa, agi sulla felpa. Da ragazzini coi manubri storti sopra la graziella, ora li spostano in fretta. Tutti i miei amici sì, bravi ragazzi, bravi sì finché non sbagli, bravi sì finché li paghi, finché non sgarri, poi questi soldi diventano bastardi. Non guardano in faccia nessuno, non guardano in faccia al futuro, perché qua non ce n'è uno. Scendiamo sì da quegli androni che puzzano di piscia, usciamo sì con quella bitch con la borsa di Crizia. Bravi ragazzi nel blocco non hanno giustizia, bravi ragazzi nel blocco si fanno giustizia. Bravi ragazzi nei brutti quartieri, fumano e parlano lingue diverse, però non ci parlano i carabinieri. Fanno le cose che è meglio non dire, fanno le cose che è meglio non fare. Bravi ragazzi nei brutti quartieri. No, mamma, non preoccuparti, esco solo a farmi un giro con i bravi ragazzi. Sfrecciano alle tre di notte sull'Audi. Dio non li vede qua giù, dietro quei tendoni blu, quindi non pregano più. Bravi ragazzi nei brutti quartieri, fumano e parlano lingue diverse, però non ci parlano i carabinieri. Fanno le cose che è meglio non dire, fanno le cose che è meglio non fare. Bravi ragazzi nei brutti quartieri. No, mamma, non preoccuparti, esco solo a farmi un giro con i bravi ragazzi. Sfrecciano alle tre di notte sull'Audi. Dio non li vede qua giù, dietro quei tendoni blu, quindi non pregano più. Dopo questo classico di Sfere Basta, ritorno a parlare di Confindustria. E quindi per parlare dell'incontro che c'è stato ieri a Prato tra Confindustria Toscana Nord e i sindacati confederali. In questi giorni Confindustria e in particolare a Prato ha protestato in vari modi, e, diciamo, piangendo miseria nell'ipotesi che il blocco della produzione continuasse, un blocco che è iniziato poche settimane fa per cercare di contenere la, diciamo, il contagio da coronavirus, e che quindi in questi giorni Confindustria ha fatto una serie di proteste rappresentative abbastanza che provocano, diciamo, abbastanza ribrezzo, se pensiamo nella situazione in cui siamo, in cui purtroppo ancora oggi vediamo centinaia e centinaia di persone morire nel conteggio fatto dalla Protezione Civile. Confindustria Toscana Nord ha deciso, no, in particolare quella di Prato, poi seguita anche a Firenze, nella loro sede di Prato, di mettere le bandiere a mezz'asta. E sostanzialmente è un... diciamo una cosa simbolica che si fa in caso di lutto, ma le bandiere della Confindustria non erano a mezz'asta per le migliaia e migliaia di persone che hanno perso la vita in questo mese e mezzo, ma per i profitti. Per cui bandiere a mezz'asta per mettersi a lutto per tutti i profitti che non sono stati fatti in questi mesi. Continuano ovviamente con il ricatto del occupazionale, per cui sostenendo che se non si riapre non ci sarà lavoro, che le persone se non muoiono di coronavirus moriranno di fame, ma noi sappiamo bene che è un ricatto che non si può accettare e che non si può pensare di far scegliere tra il lavoro e la vita. E come abbiamo parlato anche ovviamente con i lavoratori della logistica, che, di cui vi parlerò tra poco, su invece le scelte loro che hanno fatto quando hanno deciso che la salute appunto veniva prima di tutto. Ma appunto tornando a Confindustria, le bandiere a mezz'asta, ma non solo, sul loro sito, questa volta di Confindustria Toscana Nord, hanno messo un contatore per contare ogni 24 ore, come si fa esattamente con il conteggio dei contagiati e dei morti che vediamo aumentare giorno dopo giorno sempre di più, un contatore che però non conta i morti, ma i profitti e i soldi che si stanno perdendo giorno dopo giorno. Un contatore che parla diciamo di Prato, Pistoia e Lucca, che conta quanti soldi ogni giorno vengono persi a causa della riapertura, ancora una volta mettendo in paragone le vittime che purtroppo vediamo ogni giorno a causa dell'epidemia di coronavirus e i soldi che loro stanno perdendo. Abbiamo visto come diciamo il ruolo di Confindustria non si ferma qui, e abbiamo visto diciamo che faccia sono riusciti a mostrare in questi giorni, in particolare nel Nord Italia, ma non solo, del ruolo che ha avuto Confindustria nella diffusione del virus, a partire dall'apertura delle aziende che hanno continuato a produrre, a rimanere aperte anche nelle zone più a rischio come Bergamo e Brescia, ma in tutta la Lombardia, di come abbiano avuto un ruolo fondamentale nel non porre una zona rossa intorno appunto nelle zone di Bergamo e Brescia, come fu per Codogno, e quindi come loro abbiano avuto un ruolo fondamentale nell'evitare di creare una zona rossa e che quindi che potesse contenere il contagio, ma hanno fatto pressioni sulle prefetture e sul governo per pretendere che questa zona rossa non venisse fatta, causando decine, migliaia di morti, come abbiamo visto in questi giorni. Non solo sulle zone rosse, ma pensiamo anche appunto quando c'è stato da discutere sulla chiusura delle aziende oppure no, che ruolo ha avuto ancora una volta Confindustria nel pretendere che si avesse la possibilità di tenere aperto semplicemente facendo un'autocertificazione alla prefettura, per cui vediamo come purtroppo tantissime aziende anche in questi giorni non si sono mai fermate e che quindi tantissimi lavoratori sono stati costretti a continuare ad andare a lavorare, perché appunto in teoria non si avrebbe scelta. Se la tua azienda rimane aperta sei costretto ad andare a lavorare, e a meno che non ti metti in malattia, ma abbiamo visto come anche i lavoratori ci hanno parlato di come tantissimi medici stessi oramai si rifiutano di fare le malattie per cercare di evitare che le persone si mettessero in malattia, per giustamente non andare a lavorare in questo momento di grande rischio, e quindi tantissime persone sono state costrette fino ad oggi, sono costrette ancora oggi ad andare al lavoro. Tornando all'incontro che c'è stato ieri tra i confederali e Confindustria a Prato, un incontro organizzato dal sindaco Biffoni, che tra l'altro poche settimane fa faceva dei video selfie in cui insultava i cittadini che andavano al parco a fare una passeggiata da soli. Oggi, cioè ieri, ha convocato un incontro tra Confindustria e i sindacati confederali per riuscire a trovare un accordo per la riapertura del distretto. E accordo che hanno trovato, si parla dell'ipotesi che la riapertura sia già fra 5 giorni, il 20, non so che giorno della settimana sia, però, e che quindi si farà una richiesta al governo per avere diciamo, le autorizzazioni per aprire di nuovo il distretto. Si parla di misure di sicurezza, di protocolli che dovranno essere fatti per garantire sicuramente la sicurezza dei lavoratori, ma sappiamo purtroppo molto bene anche in prima persona come questi protocolli poi non siano innanzitutto non siano

Meglio crederci di più che credere a Gesù. Meglio guidare l'autobus che l'auto blu. Meglio avere la mia vita che la tua TV. Ci avviciniamo alla conclusione con Sabbie d'oro di Massimo Pericolo e voglio utilizzare, diciamo, questi ultimi minuti che ci rimangono per spiegare un po' come si è andato avanti nel settore della logistica in questi giorni in cui di prescrizioni e appunto di quarantena. La logistica in particolare a Campi Bisenzio, a Calenzano e Sesto Fiorentino, diciamo un po' quell'incrocio comuni in cui si è dislocato, diciamo, il settore della logistica pratese, che vede attraversare le merci che dal nord vanno verso Roma e poi il sud o in senso contrario. Noi abbiamo visto a partire da, appunto, da quello che è stato il decreto restate a casa, come le prescrizioni si siano fatte sempre più strette, che quindi si è arrivati a doversi chiudere in casa, ma sappiamo che tantissime persone, milioni di lavoratori in casa non ci potevano e non ci possono stare tuttora. Tra questi ci sono i lavoratori della logistica che anche dopo il protocollo che c'è stato e diciamo la chiusura di quelle che sono le attività non necessarie sono stati definiti come delle attività necessarie, e quindi la logistica ha continuato a lavorare. Tantissimi lavoratori, diciamo, delle grandi aziende della logistica come TNT, SDA, GLS hanno cominciato ovviamente a essere spaventati, a avere timore di andare al lavoro prendendo i treni, prendendo gli autobus, in cui appunto altri lavoratori, in cui si sta a stretto contatto con altri lavoratori, hanno cominciato a essere spaventati dall'idea di andare al lavoro senza mascherine, senza tutele, nessuna tutela sulla propria sicurezza. Per cui in tanti hanno deciso di mettere in campo quella che è l'astensione, cioè l'idea che se un lavoratore non viene garantito uno spazio sicuro per lavorare, e quindi se non ci sono le garanzie della sicurezza sul lavoro, questo lavoratore può decidere di astenersi dal lavoro e quindi anche di essere pagato, perché non ha la possibilità di continuare il suo lavoro in sicurezza e quindi di mettere in atto quello che si chiama sciopero bianco, per cui ci si recava comunque al lavoro ma non si spostavano le merci. Questo è andato avanti per una settimana. Abbiamo visto, i magazzini, chi ha iniziato prima, chi dopo, magari seguendo anche l'esempio degli altri lavoratori, mettersi in astensione, iniziare questo sciopero bianco per pretendere innanzitutto delle misure di sicurezza, per cui avere mascherine per tutti, guanti, la misurazione della temperatura, ma poi per arrivare a pretendere che ancora prima che ci fosse il decreto per la chiusura delle attività non essenziali, che quei lavori che non erano ritenuti necessari non continuassero. E quindi si discuteva anche che cosa si trasporta in questi camion che tutte le notti si scaricano e si caricano. Non si porta cibo, non si portano medicine, non si portano macchinari o comunque materiali utili per gli ospedali, ma si portano tantissime altre cose, in particolare molta tecnologia, le televisioni, chi ha iniziato a ordinare, diciamo, i tapis roulant per fare attività fisica a casa, ma poi ancora libri, giocattoli, di tutto, di più, ma diciamo non tante cose che forse si potrebbero ritenere non essenziali in una fase di emergenza. Per cui attraverso questo sciopero e questa astensione i lavoratori sono riusciti a ottenere delle forme, cioè innanzitutto principalmente una chiusura finché non si sarebbe riusciti a garantire un certo livello di sicurezza, e poi diciamo pensare di tornare al lavoro. Tanti sono stati a casa per anche 3 settimane, e tornare a lavorare a ranghi più ridotti, e quindi facendo, appunto, non stando magari dentro i magazzini con 70 persone, quindi non riuscendo a rispettare le distanze o comunque venendo in contatto con tantissime persone diverse, ma facendo turni più piccoli di 20 persone e cercando di far sì che siano sempre le stesse persone che si incontrano e quindi che vanno sul posto di lavoro, non ci siano, diciamo, nuove persone che magari potrebbero essere state contagiate e quindi poi contagiare, diciamo, tutto il magazzino. In tanti oggi stanno lavorando in questo modo, in tanti sono in cassa integrazione, alcuni magazzini dopo veramente tanto tempo, quasi un mese e mezzo, hanno chiuso, diciamo, hanno deciso di tenere aperto finché c'erano delle merci da spostare, poi dopo alla fine hanno deciso di chiudere, per cui in tanti sono i lavoratori che sono in cassa integrazione, ma che comunque appunto, per quanto la cassa integrazione sia solo l'80% dello stipendio, e per quanto purtroppo più che altro ancora non si vede quando dovrebbero arrivare questi soldi, non è chiaro, sono stati fatti degli annunci, dicevano che oggi sarebbe stata la deadline per l'arrivo della cassa integrazione, ma ovviamente non ci credeva nessuno, e oggi i soldi non ci sono, e però diciamo comunque l'obiettivo primario dei lavoratori era che sostanzialmente non si rischiasse la propria salute, cioè questo era veramente fondamentale per tantissimi che appunto ragionavano, sì, dicevano ok, magari diciamo quando si è iniziata l'astensione non erano sicuri se saremmo riusciti ad arrivare all'obiettivo, no, di far pagare anche l'astensione, che sia al 100%, anche l'80% con la cassa integrazione, come poi è stato, però in tanti comunque dicevano sì, ok, però il punto è che qua se uno muore poi dei soldi non se ne fa niente, e quindi in tanti hanno deciso primariamente di voler rimanere a casa. Pensiamo anche a tanti lavoratori che comunque hanno una certa età, o comunque persone che vivono con le proprie famiglie, che vivono con i propri genitori anche, che appunto raccontavano come della loro paura di tornare a casa dopo il lavoro e riabbracciare i propri cari. Questo diciamo per fare un aggiornamento un po' su quello che è stato il mondo, diciamo quello che c'è stato nel mondo della logistica. Purtroppo non ho molto tempo anche per parlarvi in modo approfondito di quello che è la situazione ad Amazon, che ha visto comunque moltiplicare i propri volumi per appunto la situazione di chiusura. Dal momento in cui le persone sono state chiuse in casa, Amazon ha aumentato tantissimo i suoi volumi, più che a Natale. Abbiamo visto anche tanti driver, diciamo quelli che guidano i furgoni, essere spostati anche da un'azienda da altre aziende verso Amazon, perché l'azienda richiedeva ancora più, sempre più forza lavoro, perché non riusciva a stare dietro a tutte le richieste che aveva, in barba ovviamente a qualsiasi tipo di protezione. E anche i lavoratori di Amazon hanno fatto sciopero, abbiamo visto con la CGIL, hanno scioperato per pretendere che si mantenessero almeno le distanze e che ci fossero i minimi sulla sicurezza, i minimi livelli di sicurezza sul lavoro. E io con questo vi saluto, spero riusciremo a riuscirò ad aggiornarvi anche su diciamo i passaggi futuri che purtroppo vediamo come in questa situazione difficile saranno comunque tante le lotte da portare avanti e le cose da pretendere. Vi lascio con un brano dei I Froci, che sono un gruppo di ragazzi di Firenze che suonano, che hanno iniziato a fare musica e mi faceva piacere farveli sentire. Questa è una canzone, si chiama 19, del loro ultimo album. Con questo vi saluto e saluto tutti, un abbraccio e a presto. Fine, Froci. Ne ho 19 di già, non vedo l'ora dirci addio almeno ora a casa. A me mi casca addosso, ma sta meglio con me dentro. Firenze mi sta addosso, ma nel modo più sbagliato. La grigia nonostante tutto, tuttora la amo, ok. Poi troppo finta, stasera sto fitte. Tutto che sì, che cazzo ti frega, ok. Ho fatto scritte, ho fatto finta, ho dato fitta, cazzo di cane. Sull'asfalto ma casa mia grande, ma grandine ci piove dentro se litigo un po'. Carico molla, tu molla, mi mora, le mura, le molare. Un fra fa olare, olare, uffa, ma non rap, non appena ti accorgerai di noi ti picchierai da solo dicendo ma dove sono stato finora. Ma in vantaggio, mi avvantaggio, torno ultimo. Da Sangaggio a Santo fino a Roma. Mi avvantaggio, ma in vantaggio, torno ultimo. Da Sangaggio a Santo fino a Roma. La testa in aria ed ho cestinato un po' troppi sogni per farlo ancora. Pochi testimoni, fa testimoni. Faresti meglio a tener d'occhio Firenze. La testa in aria ed ho cestinato un po' troppi sogni per farlo ancora. Pochi testimoni, fa testimoni. Faresti meglio a tener d'occhio Firenze. Quando ho messo i primi pantaloni larghi è andato tutto meglio. Ne sai poco, canto e non ti garba, un po' ci muoio dentro. Pensa meno a meno che non ti serva altro per farlo. Ho perso me per persone che hanno peso zero. Fine. Non ho fatto i capa, però ho faticato con noi fatti chiari. Conti fatti chiaro, fuori non fuori, luogo diverso e basta. Arriverò tardi ma con più coscienza, ehi. Ho maglie mai messe, ma messo le metà alla metà. Stanno bene solo in testa, sai, la realtà mi spaventa molto più di quanto hanno fatto i miei incubi. Pari ma di cosa, parli ma di cosa, impari ma di cosa. Sempre mi mandi fuori, tutto un po' fa, sto un po' mi fa. Strano si impastano le labbra, pensi non l'abbia. Capito, capito, l'aria per rabbia. Capita pali, compartito, perso un po' resti. Ma respiro male, che cazzo ho bisogno. Ho la testa in aria ed ho cestinato un po' troppi sogni per farlo ancora. Pochi testimoni, fa testimoni. Faresti meglio a tener d'occhio Firenze. Ho la testa in aria.